quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight, and we would especially like to welcome all the representatives of Illinois law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel ballroom at this time. Ho rivisto uno straordinario film di John Belushi, The Blues Brother. Ho deciso di chiudere questo breve discorso con una frase tratta dal film, che siamo in missione per conto di Dio. Noi, più modestamente, siamo in missione per conto della democrazia e dell'onestà. Io so che adesso voi ci amate come mi avete amato ieri sera. Mi avete abbracciato, leccato, baciato. Una mi ha detto io ti amo da quando eravamo all'1%. Cazzo. Ora Di Maio lo vedete così, una macchina da guerra, Di Battista, tutte le altre, vedete? Ma Di Maio, quando l'abbiamo preso in provincia di Napoli, parlava come Bassolino, eh? Oh! Non le faranno le votazioni, metteranno questo dream team, un commissario e cinque pubblicità. Marino è stato fatto fuori perché Marino era un fantozzi borghese piccolo P, ti faceva un po' pena, un po' ti faceva sorridere. Hanno tenuto De Luca e mandato via Marino. Dai, come cantante ottimo, eh? Ragazzi, come stride la capacità di comunicazione di Casaleggio e Grillo, eh? Però non male, non male Beppe Grillo. Marino cos'è? Un fantozzi moderno. E Di Maio, pensa Di Maio se ha sentito questa frase, quando l'abbiamo preso, ragazzi, lì nella provincia di Napoli, parlava come un bassolino, eh. Vabbè, che weekend dove in cui la politica si è mossa molto, il Movimento 5 Stelle ha fatto a Imola il suo raduno, si può chiamare raduno. Bisogna stare attenti ai termini, perché sbagli un termine, non è un raduno, era un'altra cosa. Si può chiamare raduno? Amici del Movimento 5 Stelle, scrivetemi al 349-238-6666. Raduno è offensivo oppure raduno va bene? So, ditemelo, eh. E poi c'è Renzi che combatte con la minoranza del PD. Beh, questa non è una grande novità, però stavolta pare che vogliano colpire duro. Bersani dice che la legge di stabilità di fatto è incostituzionale, perché tolgono le tasse ai ricchi e insomma si perde tutto il concetto di progressività nel pagare le tasse, che è scritto in Costituzione. Si litiga sulle unioni civili, la Maria Elena Boschi ha ha fatto un po' una retromarcia, pare, secondo la stampa, per una telefonata furiosa di Alfano con Renzi, e per cui nel giro di due giorni è sulle adozioni non si discute, e poi ieri la Boschi ha detto ma sulle adozioni lasciamo carta bianca. Che è successo in due giorni? Pare che Alfano sia arrabbiato con Renzi, abbia chiamato, e Renzi abbia richiamato all'ordine il ministro Boschi. Succede questo in questo lunedì 24 mattino, sono le 6:34 minuti, c'è Lorenzo Nespoli in redazione, c'è il nostro Peter Bescapè in regia. Oh, ci sono i miei due amici, evviva, intanto il nostro amico della sbarra di Mediaset, annuncia il nostro Fedez, possiamo dire così. Eccoci, buongiorno. Buongiorno, ti sei arrabbiato? Buongiorno, buongiorno. No, eccomi. Ti non senti un po' la sbarra? Ah, vabbè, ti senti. Puoi strombazzare sulla tangenziale? Sto uscendo adesso dalla tangenziale, sì. C'è un trasporto eccezionale. No, non strombazzare, che quello si ferma e ti corchi a rimazzate. C'è un camionista enorme rumeno davanti a me. Io eviterei. Niente fari, che in radio non si vedono, e soprattutto non strombazzare. Esatto. Oh, eccolo qua, reduce da un risultato. No, anzi, il risultato ce lo facciamo dire dalla nostra Veronica Gentili, che sicuramente avrà visto la partita, eh. Ma buongiorno, ma che bello avervi tutti e due insieme, guarda. Così. L'esordio è stato questo. Ogni volta che parla Veronica, Milan si squaglia. Ascolta, come sono soave questa mattina, sennò poi mi dite che vi tratto male. Ma che bello sentirvi tutti e due. Che bello sentirvi tutti e due. Adesso vorrei poter dire altrettanto. Non farlo. No, l'esordio era stato di un altro tipo. Non era. Tu già volevi cominciare a interrogarmi, tu capisci bene che questa mattina in cui ci sono fulmini e saette su Roma, qui si versa in una condizione difficile, e tu vuoi cominciare a chiedermi sto cercando di guardare Google, che devo cercare io? Allora, non sa manco la partita, non sa manco qual è la partita, così Juve è dura. Si scrive con la I lunga, ok, per quello non lo trovavo, lo stavo facendo con la I, con la Juve, I non viene fuori nulla. No, devi cercare Inter Juventus. Mi sa che è stato un pareggio, uno squallido banale pareggio, no? Vabbè, Google non si apre, Sì, ma pareggio quanto? 1-1. Google del 92. È finita 0-0, se 0-0, mamma mia. Bella partita, ma insomma, niente gol. Sì, ma questo che sentimenti ci provoca, ragazzi? Guarda, in Federico niente, cioè penso che volesse vincere per cercare di... Insomma, è brutto aver lasciato lo scudetto così a San Siro, essersero scucito dal petto e lasciarlo... Ti sei portato avanti, va bene. No, scherzo. In te, Veronica, credo nulla, nessun tipo di sentimento. Io hai visto che ero così turbata che tutta la notte ho cercato di rimuovere che fosse 0-0, quindi insomma, esatto. Dai. Allora, la nostra Veronica Gentili, come sapete, ha lanciato questa moda, che mi sembra una moda giusta da parte di tutti gli ospiti. Con la collaborazione dei due giovanotti di là in regia. Sì, Lorenzo Nespoli e Peter Bescapè, che attendono che cosa? Attendono il selfie di Veronica Gentili, che ogni volta che viene ospite qui alle 6:30 ci manda un selfie sul divano. Oggi c'è un elemento importante. Oggi secondo me è molto importante che ci sia anche quello di Federico. Secondo me è fondamentale. Più che una moda è un feticismo. No. Federico, potresti, appena hai superato il camion, appena sei fermo, per carità, non fate queste cose mentre guidate, assolutamente. Sì. Ma appena sei magari alla sbarra. Quasi alla sbarra, mi fermo e faccio un selfie alla sbarra. Grazie, che poi ce lo mandi e lo mettiamo sul nostro profilo. Oggi proprio non possiamo farne a meno. Rubecchi non l'ha fatto perché così era più timido, più intellettuale, ma Federico non hai giustificazioni. Vergogna. No, adesso... io che sono un becero. Esatto. Cioè, come capisci? Posso non farlo? Il buzzurro di Mediaset è un bifolco, certo. Vabbè. va bene. Allora, da che cosa vogliamo partire, cari tutti? Dai, Veronica, cosa vuoi buttare addosso? Abbiamo la croce a Renzi? Abbiamo l'imbarazzo della scelta, tra l'altro sì. Ieri li abbiamo visti tutti quanti. No, allora, possiamo partire con la mia adorata minoranza Dem. La mia adorata. No, oggi ho scritto un sacco di cattiverie su di loro che usciranno più tardi, invece, perché... Vanno subito a recuperare i voti, i voti. Hai di Veronica voti, Gentili. Tu, Veronica Gentili, vado subito a vedere che cosa ha, che voti ha dato. Vai avanti. La vai Conchi avanti. Era già stata bocciata tragicamente, sì. È bocciata nella rubrica, quindi poi dopo l'ho lasciata. Beh, per forza. Sacrilegio. Si è bocciata la Boschi. Io sì. Capisco che il look vestita di nero con quest'aria un po' così da Lady Macbeth vincente il giorno della riforma del Senato che sì. È passata in terza lettura vi ha dato grosso godimento. Però insomma diciamo che sono passati come delle schiacciasassi soprattutto e tutti e qualunque genere ma di obiezione. Ma cosa non va bene della Boschi? Non ho capito perché è bocciata. No, della Boschi niente in sé, non va bene la riforma del Senato che hanno fatto contro il volere di tutti. Ma ancora la riforma del Senato però pare. Hai ragione tu, non ne parliamo perché oggi non ma è basta, nella nostra agenda. Ma no, oggi ci urge più parlare del fatto che abbiamo fatto una legge di stabilità molto dubbia e opinabile che persino i pavidi della minoranza Dem sono costretti a dire qualche ma cosa. Ma lo attaccano perché... tutti i giorni. Però è interessante, insomma, questa roba è incostituzionale. Tu, Federico, te ne occuperai della legge di stabilità, no? Sì, anche oggi me ne occupo. Sì. No, ma con un tono un po' più entusiasta. Entusiasmo. Sì, anche oggi una volta all'anno come Natale arriva la legge di stabilità. Perché è incostituzionale? Perché in qualche capitolo abbassa perché l'età. No, dice Bersani sì, no, perché l'articolo 53 teoricamente dice che il fisco è progressivo. Senti qua, al Fatto Quotidiano mangiano pezzi di Costituzione ogni giorno, si svegliano stanotte facevo fatica a digerire io, esatto. Però perché è rimasta un po' di Costituzione. No, siccome le tasse vanno pagate in maniera progressiva, Bersani dice ma come avete tolto la tassa sulla prima casa, che ne so, a chi ha il castello anche e poi quindi l'importante è non dire che uno ha fatto una manovra di sinistra perché nel momento in cui si dà una adesso, scelta sto dibattito infatti, però cioè, voglio dire. Non è una manovra di sinistra questa. Infatti come dicevamo il povero Silvio giustamente si è sentito che ha fatto anche lui uno show capito, ma scusate ma solo in Italia si discute se è una manovra di sinistra o di destra, cioè uno può dire va bene, va male. Sapevo che avresti fatto questa sciocca obiezione, mi ero già portata avanti ieri dicendo che adesso il post ideologico ce lo rifila anche Renzi. Il post ideologico. Quando non sappiamo che stiamo dire, parlando non c'è più destra e sinistra. Post ideologico. Non è né di destra né di sinistra, è una manovra politica, cioè è una manovra che tende a prendere i voti oggi con i soldi di domani, però, perché la maggior parte ha debito questa manovra, capisci? Sì. E quindi è esattamente una manovra per prepararsi alle elezioni amministrative. Beh, ha ragione, come tutte le manovre che vengono fatte da Renzi sostanzialmente sono tutte fatte con strano, si pensa alle elezioni in Italia non succede mai, ma si va a votare ogni due mesi altri, però da uno che si presenta come uomo nuovo magari ci si aspetta fatti nuovi, questa è una cosa che facevano anche quelli prima di lui, quella di fare le manovre per ottenere i voti, ecco. Comunque faccio notare che due messaggi già chiedono selfie della Gentili, grazie, e Pietro da Como, subito il selfie della Gentili, grazie. Anzi Pietro non lo chiede neanche grazie, ecco, lo dà come perentorio. Stavo immaginando che Pietro da Como chiedesse il mio selfie, mi stavo già preoccupando. No, ma quello più che altro ci angosciava un po' il clacson del sorpasso, capito? Allora siamo un attimo preoccupati, non vogliamo Federico sulla coscienza. No, perché lo ti accosti con calma. Ecco. Il buon Marco. Attenzione, è arrivato il selfie in diretta? C'è Peter Bescapè che sta applaudendo in regia, non lo so perché è arrivato il selfie, allora, la scena è questa, c'è Lorenzo Nespoli che ha preso lo schermo tutto e me l'ha alzato per farmelo vedere perché è più basso rispetto al punto. Me l'ha alzato tipo... Descrivete questo selfie allora, tipo, no? Allora, me lo fai rivedere? Non lo puoi vedere nemmeno. Sta guidando, me lo fai rivedere per favore? Allora, c'è Veronica Gentili... qual è il dritto e qual è il rovescio? sì, c'è Veronica Gentili che ha anche un braccio... Aspetta, perché un braccio dietro la nuca, possiamo dire. Questa descrizione la vedo. La nuca. come posso dire, in una posa, non è la nuca, in una posa, in una posa un pochino ammiccante, posso dire ammiccante, va bene, ammiccante mi sembra esagerato. Comunque hai detto il divano, c'hai solo un divano a casa, per favore basta sto divano, mi sono messa a studio come Robecchi, non ti va bene neanche quello, però che tu mi pretenda così, sono un po' accasciata, come dire, vabbè che accasciata, io ho detto ammiccante invece accasciata. Scene di isteria in regia praticamente. No, c'è Lorenzo Nespoli che improvvisamente ha preso il buon umore alle 6:43 del mattino. Peter Bescabè che applaude. Peter Bescabè che applaude. Non so, l'ho visto applaudire. Ho detto: cosa applaudi? Che devi schiacciare i tasti. Tu? Di colpo l'ho visto applaudire. È arrivato il selfie di Veronica Gentili. Lo trovate sul profilo Twitter di 24 mattino. E tra poco lo tweet anch'io. Bene, dicevamo: la sentiamo Maria Elena Boschi, viene data l'arena di Giletti. Eccola qua, sono bionda ma mica scema. Anche lei ha dovuto dimostrare qualcosa di più rispetto al fatto di essere una donna non solo bella? Ma io a volte, è un peso per lei? No, io a volte scherzo con i miei colleghi in Parlamento quando provano a fare qualcosa, magari perché mi vedono giovane, ok, dico vabbè che sono bionda, ma non sono scema, quindi faccio un po' la... però è una battuta, diciamo, al netto delle battute io credo che, a parte che la bellezza è soggettiva, quindi bella, non bella, non lo so, insomma avere un aspetto piacevole può essere... Comunque, voglio dire, non voglio essere ipocrita, ma per chi fa politica non deve contare. Come porti i capelli, bella bionda? Ah, guardi, dunque, dipende molto anche dall'abito. Vabbè, qui c'è bionda e scema, è un vecchio stereotipo che però... Però conta, però conta, diciamo. Conta, va bene, anche l'aspetto conta. Direi altro che scema la Boschi, insomma, io la trovo più che altro una macchina da guerra. Era assolutamente sì. L'unica che poteva permettersi di uscirsene con la nonchalance con cui l'ha fatto due giorni fa, di dire qui sul decreto di legge Cirinnà si va avanti, se a NCD non va bene noi cercheremo nuove alleanze. Sì, e nel giro di 24 ore però ha cambiato. Chiaro, pare ci sia stata una telefonata di questo tipo, non avrebbe potuto farla nessuno al mondo. Gli altri ministri che sono completamente esautorati di qualunque tipo di potere stanno lì appesi. Lei si può perché lei è un'emanazione di Renzi. Esattamente, lei è proprio la costola di Adamo. Proprio ma la domanda politica vera è bionda naturale, secondo voi? Oppure no? Questo Veronica ci potrebbe aiutare. Non allignare. Secondo me è bionda naturale. Senti che va tirato fuori. Tanto si sa che gli uomini fanno finta di preferire le bionde, ma poi. Poi cosa? Stringi, sposano e muore. La storia è sempre quella, no? Sì, esatto. A proposito, quando ti sposi, Veronica? No, questo è sbagliato persona. Quella è la Lussana, si è già sposata, è passato sì, tempo. Certo. Beh, è passato tempo, non saranno passati 6 mesi. Ora. Tu sai già che non succederà. Intanto perché qualcuno dovrebbe accollarsi questa croce? È già una buona domanda, no? Siamo abbastanza d'accordo. Questo mi sento di darti ragione. Sì. Sapevo che avrei trovato su questo un plauso corale. Assolutamente. Facciamo così, dobbiamo andare al traffico. Aspettiamo ancora il selfie di Federico Novella. Federico, lo attendiamo con grande ansia, non sei obbligato a farlo, ti massacreremo se non lo farai. Adesso invece ve lo beccate. Va bene, traffico, è arrivato il selfie di Veronica Gentili, ma lo stiamo mettendo su 24 mattino, ancora non c'è, tra poco lo twitto. Scusa mio amore, non è che non ti volevo sposare, c'era il traffico. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... mattino. Io ho quasi 80 anni e voglio vivere fino a quando i grillini vanno al governo. Guarda che vivo per eterno, perché i grillini non andranno mai al governo a Roma. Ciao Milan, ti saluto. Uno che ha anche due casette, magari uno in montagna, una piccola casa in cui non ha la televisione, è al mare, così, cosa dovrà pagare? 3 abbonamenti? 3 abbonamenti Rai? Pare giusto? Milan, mi chiedo, l'Agenzia delle Entrate di Torino comunicherà all'Enel i nominativi di coloro che, su regolare procedura, sono stati ufficialmente esentati dal pagamento canone, o dovremo fare causa all'Enel? Riuscirà l'intrepido Lino Milan a farci incazzare anche questa mattina? Sicuramente. Signorina gentile Veronica, la quale ha la forza di una bomba atomica. Sei vibrante, sei nervigna, mamma mia quanto sei bella. Il signore sta, come dire, vivendo dei momenti di ritorno alla gioventù. Abbiamo un pretendente, però. Abbiamo un pretendente finalmente. Tra l'altro è arrivato il selfie, l'ho ritwittato e ci poniamo questa cosa, no? Perché hai una mano nei capelli, l'altra mano. E chi ti ha fatto la foto? Perché Lorenzo Nespoli qui è un po' geloso, voleva sapere. Ah, subito preoccupato. Guarda, nessuno si sveglierebbe per farmela. Il computer l'ha fatta. Ah, il tutto computer. Da sola, tutto il da computer. Sola. Il computer che abbiamo un sodalizio ormai, certo. Bravo, autoscatto, italianizziamo. Esatto. Voglio fare questa domanda, ma il Movimento 5 Stelle secondo voi governerà mai a Roma o al governo? Federico, tu che ne pensi? Abbiamo sentito Beppe Grillo. Io guarda che stavolta un po' ci credo, ma perché non lo vuole fare nessuno il sindaco di Roma, ancora non si è trovato. Forse manco loro, peraltro. Ma sì, ma sai, voglio dire, è difficile che loro sì, possono scegliere uno dei loro colonnelli un po' più conosciuti, ma insomma Grillo lo voti perché c'è Grillo, poi puoi anche mandare un signor nessuno. Se vinci, vinci anche con un signor nessuno, secondo me. Parlo del Movimento 5 Stelle. Sì. Solo che non c'è nessuno, non lo so, perché non lo fai tu? Oppure chiediamo a Veronica. Tu, io? Magari Veronica è più di Roma. Scusate, vedo che vengono Veronica. Lanciati tutti quanti come sindaco. A questo punto veramente devo candidarmi anch'io. Qual è il primo punto che metteresti nel tuo programma? Io i primi tre, se vuoi. Beh, intanto richiamerei immediatamente il mio amico Ignazio Marino per avvalermi della sua collaborazione. No. Ma come? Ma sì, io lo direi dopo che sei stata votata. Ho eliminato il rischio della lista civica di Marino che potrebbe crearmi dei problemi. Sì, io però forse lo direi dopo che hai preso il voto. Dopo che hai preso scusami, se lo devo disinnescare lo devo fare prima, altrimenti ci sono questo 8% che pare che rivoterebbe Marino. Sì. E vinceresti così? Secondo te? Devo premonirmi, non lo so, però potrei trovare un sacco di altri escamotaggi. So essere molto persuasiva. Tipo i selfie, per esempio, sindaco a selfie. Già lo vedete titolato da tutte le parti. Funziona il vostro selfie sindaco, un selfie per tutti. Uno li fa ad personam la mattina distribuiti, non li mandi a casa. Sì. Anche questo selfie, un voto. Però voglio chiudere con questa ve la devo far sentire. A Napoli c'è stato un grande dibattito in consiglio comunale perché una proposto di togliere i due biglietti, credo due biglietti omaggio per ogni consigliere comunale. Apriti cielo, si è innestato un dibattito assolutamente Ma non ho capito, due biglietti di? Della partita del Napoli. Ah, vedi, il pallone, quello che si gioca con sai quello con 11 mutande. Siete veramente monotematici, ragazzi. Veramente il calcio è il vostro occhio. E tu renditi conto, il consiglio comunale è stato praticamente blindato su questa discussione. Sentite un po' le rimostranze di alcuni consiglieri comunali, Oltre ai consiglieri, che credo che se lo merita dopo una settimana di lavoro avendo a che fare con i cittadini, ci possiamo pregnare di andare. Dai, sti rompicoglioni dei cittadini. Ci vedo la partitella. Senti. A godere dello spettacolo, del calcio, ma anche in qualità di consiglieri comunali che hanno un'altra funzione, quella di sovraintendere sempre al corretto funzionamento di tutte quelle che sono le strutture comunali. Ma che vuol dire? Cioè il consigliere va a vedere la partita per far sovraintendere alla buona riuscita dello stadio. Beh, ragazzi. A controllare come sta messo il San Paolo. Ah, vabbè, ma ragazzi, è un genio. Quello, Veronica, ma quello. Questi sono ragionamenti da voi, ragazzi. Ma che c'ha veramente a che fare con i cittadini? Un consigliere comunale tutta la settimana potrà andare a divertirsi gratis. Che cavolo, ma non si può sentire. Vi devo salutare perché abbiamo finito. Federico Novella alle 9 con Mattino 5 su Canale 5, ricordate. E Veronica Gentili, grazie per... Federico, aspettiamo il tuo selfie, adesso lo ritwittiamo subito. Grazie. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Alessandro Milan, che leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. 24 mattino. Eccoci qui, cari ascoltatori, le 7:19 minuti, allora la 129esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è cominciata. Siamo pronti, eh? Siamo pronti a leggere i giornali, ovviamente. È arrivato anche il selfie di Federico Novella, dopo quello di Veronica Gentili. Tra poco lo pubblichiamo sul nostro profilo Twitter 24 mattino, io lo ritwitterò. Invece più tardi con Oscar Giannino avremo ospite Matteo Salvini, oggi leader della Lega, e parleremo delle tematiche politiche, ovviamente, che troviamo sui giornali. E andiamo allora a sfogliarli questi quotidiani. Questo lunedì 19 ottobre i titoli sono ancora molti declinati alla legge di stabilità, il Sole 24 Ore, Tasi, IMU e proroga dei bonus, ecco tutte le novità per la casa, questo è il titolo di prima pagina, mentre per il Corriere della Sera Renzi e la manovra, battaglia ideologica solo per logorarmi, è il fronte nuovo di confronto, scontro con la minoranza del proprio partito. Manovra, scontro nel PD sulle tasse, è l'apertura del quotidiano La Stampa. Mentre per il Messaggero, manovra, Renzi pronto alla fiducia. Questo sarebbe l'intento del Premier in Parlamento. L'unità, il ballo del mattone, questo è il titolo di prima pagina. La verità sulla Tasi, per Ville e Castelli vale 85 milioni, per le altre prime case 3,6 miliardi. Risponde così l'unità, visto che l'accusa a Renzi è quella di aver aiutato i ricchi nel togliere l'IMU. O meglio la tassa sulla prima casa, e l'unità fa questo conto: tolti 85 milioni da Ville Castelli, mentre per tutte le altre prime case 3,6 miliardi. Poi c'è il tema unioni civili, che torna prepotentemente alla ribalta. Repubblica, l'attacco della CEI alle unioni civili, famiglia esclusa, la CEI vuol dire i vescovi. Il Fatto Quotidiano, CEI comanda, Boschi esegue, è il titolo di prima pagina. Unioni civili, farsa, scrive il Fatto. Mentre il Giornale si concentra su Volkswagen. Volkswagen rischia il crack, guai senza fine per il colosso tedesco, perché i grandi azionisti preparano una causa da 40 miliardi nei confronti di Volkswagen. Voglio partire però come al solito dalla lettura di altre notizie che mi hanno colpito. La prima è un'intervista a Henry De Luca, l'intellettuale che viene intervistato dal Fatto Quotidiano. Perché viene intervistato Henry De Luca? Perché oggi arriva la sentenza nei confronti di Henry De Luca sull'istigazione al sabotaggio della TAV Torino-Lione. Se mi condannano vincerà un articolo del codice fascista. Questo è il titolo dell'intervista di Andrea Giambartolomei a pagina 4. Henry De Luca oggi al Tribunale di Torino, dove metterà la sentenza nel processo in cui lo scrittore 65enne è imputato per istigazione a delinquere finalizzata al sabotaggio. Aveva detto, infatti, aveva scritto per la verità sull'Huffington Post e poi all'ANSA: la TAV va sabotata. Come attende la sentenza De Luca? Beh, mi sento abbastanza congedato. Sarà un capolinea rispetto a questa incriminazione balorda. Se sarò assolto, sarà ripristinata una legalità e l'articolo 21 della Costituzione prevarrà. E se fossi condannato, prevarrà l'articolo 414 del codice penale fascista. Senta, se condannato lei comunque non farà appello, ma con una pena bassa non andrebbe in carcere. Sarebbe però un condannato per lo Stato. Sarei il primo condannato per istigazione e spero anche l'ultimo. Di questo processo, da un punto di vista, ero lusingato, dice De Luca, perché per i PM ero un criminale pericoloso, perché uno scrittore ha un'influenza su persone che neanche conosce, un potere che non viene riconosciuto neanche ai politici con i loro militanti. Certo, quando poi il giudice ha chiesto al dirigente della Digos se dopo le mie dichiarazioni fossero aumentati gli atti ostili contro il cantiere, la gente ha detto no. Così Henry De Luca. Ora ovviamente si attende la sentenza. Si attende la sentenza oggi nei confronti dello scrittore Henry De Luca. Saltiamo a un altro tema, che è quello del gioco d'azzardo. Spesso si sente dire: ah, ci sono troppe macchinette, le slot machine, troppe sale, troppi luoghi che nascono come funghi. E ci sono anche delle campagne a dire contro la ludopatia, cercando di dire sono troppe queste macchinette in giro, bisogna fermarle, e molti sono d'accordo anche a dire che non bisogna far proliferare queste macchinette. Ebbene, oggi vi segnalo l'articolo di Gian Antonio Stella in prima pagina del Corriere della Sera dal titolo Il gioco d'azzardo che invade l'Italia. Ebbene sì, ancora altre 22.000 sale giochi. Questo è ciò che si evince da un bando fatto dal governo nella nuova legge di stabilità. Che razza di Stato è quello che premia al Quirinale l'uomo che più combatte i giochi di azzardo e subito dopo spalanca la porta a 22.000 nuovi punti gioco destinati a rovinare altre centinaia di migliaia di italiani? Questa è la domanda che si pone all'inizio dell'articolo Gian Antonio Stella. Basta, non ne possiamo più di queste ipocrisie, tuona Don Luigi Ciotti, ha ragione. Le date dicono tutto. Il 10 ottobre l'ANSA annuncia che il presidente Mattarella ha deciso di nominare il sociologo Maurizio Fiasco ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. È un riconoscimento bellissimo. Il motivo è questo: per la sua attività di studio e ricerca su fenomeni quali il gioco d'azzardo e l'usura, di grave impatto sulla dimensione individuale e sociale. Rileggiamo: grave impatto sulla dimensione individuale e sociale. Tre giorni dopo, scrive Stella, un disegno di legge dei grillini propone seccamente di vietare la pubblicità asfissiante di ogni genere di scommesse possibili e immaginabili. Disegno appoggiato da tutte le associazioni nemiche dell'azzardo, affiancato da un altro progetto del democratico Birabelli. Risultato? L'ennesimo rinvio. Un gioco sporchissimo che punta solo al rinvio, accusano i grillini. Altri due giorni ed ecco che il governo infila nella legge di stabilità la messa a bando per rastrellare soldi di altri 22.000 punti d'azzardo, cioè sale giochi o spazi dedicati nei locali pubblici. Possibile? Ma non fu Renzi a firmare 2 anni fa, ancora sindaco, ma già segretario del PD, la proposta di legge di iniziativa popolare dell'Italia dei Valori contro lo Stato biscazziere? E non fu lui a bacchettare i parlamentari PD che avevano votato un emendamento che puniva i comuni, i quali, frenando il dilagare delle slot machine, avevano rinunciato agli incassi del gioco d'azzardo? Diranno, come già dicevano i governi precedenti, che coi soldi del gioco, che Cavour definiva una tassa sugli imbecilli, si possono fare cose buone. E insomma, così poi continua l'articolo di Gian Antonio Stella, è un'intera pagina dal titolo L'azzardo, insomma, nuovi giochi d'azzardo. Tra l'altro anche Nanni Delbecchi sul Fatto Quotidiano, Nanni Delbecchi racconta il suo no ai tabaccai bische. Allora è meglio aprire i casinò, dice Nanni Delbecchi. Se proprio io devo andare a prendere le sigarette e trovarmi in mezzo a una bisca con tutte le macchinette, allora aprite i casinò e va bene così. Allora vi do questa buona notizia. C'è su tutti i giornali, visto che spesso dite ah, le buone notizie, no, sapete che purtroppo, cioè no, non le dai. È che non ci sono, io leggo i giornali, non è che me ne posso inventare di altri i giornali, ci sono poche buone notizie, quando ci sono eccola qui. Sapete che l'ISIS, lo Stato Islamico, ha distrutto parte dei beni architettonici a volte millenari in questa follia iconoclasta, e allora c'è un progetto che proviene dall'Italia, che utilizza una stampante 3D fatta da Massimo Moretti di WASP, inizialmente creata con l'idea di costruire case a basso costo, e dovrebbe essere utilizzata in questo progetto al cui capo c'è l'ex sindaco di Roma Rutelli come presidente dell'associazione Incontro di Civiltà. L'idea è quella di ricreare l'arte distrutta nei siti culturali dove ora c'è lo Stato Islamico, la stampante che farà rinascere l'arte distrutta. Anna Lombardi lo racconta a pagina 23 di Repubblica, così le opere devastate dal califfato saranno ricreate con la tecnologia 3D. Ovviamente sono copie, ovvio, ciò che è stato distrutto non si può più ricreare. Ma il progetto è stato presentato ieri a Roma, la macchina può produrre oggetti alti fino a 6 metri, e allora si vuole creare alcune come la scultura assira di Nimrud risalente al IX secolo, che rappresenta il mitologico guardiano della città, metatore, metauomo, su cui i jihadisti si sono accaniti, si cerca di ricostruirlo. Oppure il famoso leone di Alatta all'ingresso del sito archeologico di Palmira in Siria, anche questo fatto esplodere in un'operazione terroristica definita dal direttore generale dell'UNESCO di pulizia culturale. Ebbene, tutto ciò verrà ricreato in un progetto che vede in prima fila Roma, l'associazione presieduta da Rutelli Incontro di Civiltà, ma anche Riccardo Luna, consigliere per l'innovazione della Presidenza del Consiglio, la consulenza dell'archeologo Paolo Mattie, che spesso è stato nostro ospite, e insomma mi sembra una buona cosa, insomma una buona pezza che si può mettere di fronte a questa follia che è stata fatta lì dove c'è l'ISIS. Va bene, andiamo all'articolo però che mi fa pensare della giornata. Torniamo dunque alle notizie un po' poco allegre e teniamo le mani sul volante per l'inchiesta che propone Fiorenza Sarzanini e riguarda la sanità pubblica e un dossier della Guardia di Finanza. Pagina 25 del Corriere della Sera. Pillole a chi non ne aveva bisogno. Ecco le truffe milionarie della sanità. È un elenco interminabile di truffe accertate dalla Guardia di Finanza in un periodo che va dal 1 gennaio 2014 al 30 settembre 2015, dunque un anno e nove mesi. Un totale di truffe per 1,067 miliardi di euro accertate. C'è di tutto: medicine date a chi non ne aveva bisogno, truffe contro l'ASL di Brescia per la convenzione con alcune società, a Bergamo anche, e le truffe con i badge, con i ticket, dalle piccole alle grandi truffe, 1073 persone denunciate, frodi accertate, danni erariali per 1,067 miliardi. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Ecco la rassegna stampa di Alessandro Milan, che tu sei la fava brillata dell'informazione in toscano. Eccolo là, in toscano. Allora mandateci le vostre sigle, 0246524492, la nostra segreteria telefonica, continuate a mandare le vostre sigle anche in dialetto. Allora, cari ascoltatori, sui giornali oggi c'è molta politica, soprattutto la discussione su tre temi: la legge di stabilità, le unioni civili e invece il Movimento 5 Stelle. Sono le tre notizie principali di politica, no? Cominciamo dalla legge di stabilità, perché soprattutto all'interno del partito c'è una vera e propria rivolta. Pensate che Bersani ha detto che sulla questione delle tasse è stata tradita la Costituzione in questa legge di stabilità. L'articolo 53 della Costituzione parla di progressività nel pagare le tasse. Allora Bersani dice: ma come, è stata tolta la tassa sulla prima casa, per cui i ricchi pagheranno meno, anche quelli che hanno, no, si è parlato di ville, di castelli. È vero che oggi l'Unità risponde in qualche modo in prima pagina mettendo queste cifre. L'esenzione per ville e castelli riguarda un totale di 85 milioni di euro, mentre per tutte le prime case degli italiani sono state tolte tasse per 3,6 miliardi, quello che chiama l'Unità il ballo del mattone. Comunque la questione politica è che Bersani accusa, ex segretario del PD, è stata tradita la Costituzione in questa legge di stabilità. È interessante allora il retroscena di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, pagina 3, che come sempre racconta gli umori all'interno di casa Renzi. E gli umori di Renzi, con lo sfogo ai suoi più costretti collaboratori, non sono dei migliori, perché già aveva detto Renzi: vedrete che ora partirà un nuovo tormentone appena presentata la legge di stabilità. Ed eccolo qui lo sfogo di Renzi: non parlano mai male di Berlusconi o di Grillo, ma attaccano me. L'intento è quello di logorarmi, ma io tengo duro. Questa è la posizione di Renzi all'interno del partito. Addirittura il Messaggero si spinge a dire che Renzi pensa alla fiducia, visto che ora la legge di stabilità dovrà essere discussa e convertita in legge dal Senato e dalla Camera. Parlare di fiducia, questa è l'idea del Messaggero. C'è anche un caso però legato alla questione dell'innalzamento alla soglia dell'uso del contante da 1.000 a 3.000 euro. Il caso l'ha innescato Raffaele Cantone, perché ieri era ospite alla Repubblica delle Idee a Pescara, c'è tutta l'intervista a pagina 2 e 3 di Repubblica, e il commissario anticorruzione dice a un certo punto riguardo alla questione della soglia del contante: la riduzione della soglia non eliminava la corruzione, ma sono contrario a questo innalzamento perché ha un valore simbolico, sembra dire purché tu spenda va tutto bene, senza contare che il cambio continuo delle regole è il contrario della certezza che serve alla lotta contro la corruzione. Poi ovviamente Raffaele Cantone parla anche di altro, proprio la lotta alla corruzione che si combatte con una svolta politica, dice il commissario anticorruzione. Intanto va sui giornali questa polemica, scelta sbagliata, scrive anche il Corriere, da parte di Cantone, è rischio evasione con l'aumento dell'utilizzo della soglia del contante. Comunque questo è lo scontro sulla legge di stabilità, soprattutto all'interno del partito. L'altro scontro Renzi lo deve fare soprattutto con i vescovi. La CEI, l'affondo dei vescovi sulle unioni civili, famiglie messe all'angolo. Monsignor Galantino, il segretario della CEI, interviene così sulla questione delle unioni civili: chiedo che la politica non sia strabica, non si può pensare a un governo che sta investendo tantissime energie per queste forme di unioni particolari e di fatto sta mettendo all'angolo la famiglia tradizionale che deve essere il pilastro della società. Questa è l'accusa dei vescovi, come dire, si fa poco per la famiglia tradizionale e molto per queste forme di unioni particolari, le definisce così Monsignor Galantino. Ecco dunque l'affondo dei vescovi, da cui si deve vedere le spalle Matteo Renzi, politicamente parlando. Certo, c'è da dire che anche all'interno della maggioranza di governo sulle unioni civili c'è molto scontro. Lo scontro è soprattutto con Alfano, leader del nuovo centrodestra. Racconta La Stampa, nell'articolo più interessante, ci sarebbe stata una telefonata di fuoco tra Alfano e Renzi, con Alfano che chiede a Renzi in qualche modo richiamare all'ordine il ministro Maria Elena Boschi, che due giorni fa aveva detto che sulla questione delle adozioni non si discute, o quella che viene definita stepchild adoption all'interno delle unioni civili. E Alfano ha telefonato a Renzi a dire: non è possibile, su questo noi non cediamo. E allora, secondo questo retroscena di Amedeo La Mattina a pagina 5 della Stampa, Alfano telefona a Renzi, Renzi richiama il ministro Boschi chiedendole di sfumare un po' la questione, ed ecco che allora ieri il ministro Boschi è andato all'arena di Giletti a dire: sulla questione delle adozioni probabilmente il PD lascerà libertà di coscienza, non ci sarà nessuna rottura di governo e di maggioranza e ci confronteremo, è possibile trovare un accordo. Quindi la Boschi, che nel giro di 48 ore smussa un po' quello che aveva detto. E infatti Alfano fa un'intervista al Corriere della Sera, intervistato da Marco Galluzza, pagina 9, dice sulla questione delle unioni civili: su due cose non transigiamo, il primo è l'equiparazione al matrimonio, il secondo è l'adozione, si tratta di due questioni intimamente connesse. Senza voler riaprire la storica disputa sulla differenza tra zuppa e pan bagnato, è chiaro che se noi a parole diciamo che l'unione civile non è un matrimonio o un istituto equiparato, ma nei fatti fissiamo regole e diritti che in sostanza la mettono sullo stesso piano, in un battito di ciglia troveremo un magistrato che farà un passo ulteriore. E cioè? Beh, se non saremo chiari, ci sarà certamente un tribunale che dirà che quell'elenco di regole che abbiamo approvato descrive un istituto analogo al matrimonio, ed eccola là, l'adozione che ti spunta per via giurisprudenziale. Questo è il timore ed è il succo della diatriba politica tra il nuovo centrodestra e il PD di Renzi all'interno della questione unioni civili. Per il giornale, nozze gay, figuraccia del PD per non far cadere il governo, la Boschi fa retromarcia dopo le minacce del nuovo centrodestra. Vabbè, rimane la questione Grillo, ma l'affrontiamo dopo. Dopo, perché ora c'è Mauro Meazza rinfrancato, no, non lo so, da questo pareggino squallido di due squadre veramente misere, cioè Inter e Juventus. Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, non ho capito il fatto di misere e squallide, eccetera. Ho detto. Ho capito, ma cos'è, un attacco preventivo per evitare paragoni imbarazzanti? Va bene, con, sì. Saluto con altre tutti. Prestazioni sportive. Comunque siete secondi, mi sembra, no? Mi pare di sì. Anche la Pro Sesto, che ieri ha vinto alla grande all'89esimo vittoria a Inveruno della Pro Sesto, 3-2. Grazie. Ma tu sei socio della Pro Sesto, che dobbiamo sempre parlare della Pro Sesto. Sono tifosissimo. Sei tifosissimo, va bene. Allora rispettiamo senz'altro il tifo. Ti voglio dire che oggi con il Sole 24 Ore cominciamo la guida al disegno di legge di stabilità. Cominciamo con la casa, quindi l'abolizione dell'imposta sulla prima casa, ma c'è molto altro. Ti ricordi la questione degli imbullonati, i macchinari che venivano calcolati? Ecco, c'è anche quello nelle misure di cui trattiamo, che spieghiamo oggi su Sole 24 Ore, e poi anche come ricade, anzi non ricadrà più, la quota cosiddetta dell'inquilino per la TASI. Sai che c'era stato un pasticcio quest'anno, sarà ancora fino a dicembre ovviamente, sulla materia. E continuiamo poi tutta la settimana, così puoi anche tu apprendere punto a punto che cosa c'è dentro il disegno di legge di stabilità. Tra l'altro ci sono anche le previsioni di assunzioni per la cultura, che però, come ti spiega Antonello Cherchi oggi sul Sole, ci servirebbero 700, arriveremo a 500, si sa che lì i fondi sono sempre un po' risicati. Poi, a proposito di questioni del pubblico, sai cos'è lo SPID? Lo SPID? Non lo sai, perché non sei attento. Allora, lo SPID è il sistema pubblico di identità digitale. Tu dici, che me ne faccio? Allora, vuol dire che si sta creando, e forse è pronto dal 2016, un sistema per cui ti danno una sola identità digitale, una sola password per parlare con la pubblica amministrazione. A SPID, SPID. SPID, sì, ma sì, leggi Sole 24 Ore. No, ho capito, ma perché il nome SPID andrebbe un po' cambiato, perché scritto in modo diverso, ma insomma è una droga lo SPID. Ma vabbè, però vuol dire anche velocità, allora chiaro. Leggi Sole 24 Ore, adesso non è che possiamo star qui a spiegare, a perdere tempo con te, che poi ci sono gli ascoltatori che giustamente vogliono sapere. Oh, mi raccomando, con gli affitti in nero. Mi raccomando, evitiamole. Perché ci sono delle sentenze. No, siccome è una tentazione che ogni tanto viene, e non bisogna mai indurre in tentazione, oggi segnaliamo nelle pagine norme tributi che tu leggerai. Dimmi come. Religiosamente. Ecco, infatti, non indurre in tentazione, tu le leggerai religiosamente. Segnaliamo le decisioni della Cassazione molto severe, appunto, sulla materia dell'affitto anche parzialmente in nero, perché ogni tanto qualcuno si fa prendere da questa tentazione particolare. E poi naturalmente l'esperto risponde, parliamo tra l'altro, tra le altre tante cose di cui parliamo, dei conti online. A questo punto altro non ti vuol dire, continuiamo a guardarvi dall'alto in basso, così come continuiamo a guardare dall'alto in basso anche la squadra con cui abbiamo giocato ieri sera. E quindi per il momento va tutto bene. Io direi traffico! Stufe, caldaie e termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Alessandro Milan, lo sai che cosa penso di te? Che sei solo chiacchiere e rassegna stampa. E va bene. Allora, cari ascoltatori, dicevamo, il Movimento 5 Stelle, c'è stato il raduno a Imola, la convention a Imola di due giorni. Il Corriere della Sera titola su Casaleggio, che dice: primo punto, via la prescrizione. Per la verità, racconta Marco Imarisio, nel mondo dell'agorà dell'uno vale uno, dove si decide tutti insieme, c'è ancora qualche problema di comunicazione, perché l'unica notizia politica arriva quasi per caso da un Gianroberto Casaleggio ciondolante che, mentre cammina all'ingresso dell'autonomo, viene intercettato da un cronista che gli chiede la prima cosa che farebbe il Movimento 5 Stelle al governo. Il cofondatore ci pensa sopra qualche istante, poi dice: abolire la prescrizione. Il titolo di giornata è garantito, peccato non lo sappia nessuno dei diretti interessati. Alessandro Di Battista se lo fa ripetere due volte, ha detto davvero così? Roberto Fico aggrotta le sopracciglia, io non l'ho sentito. E almeno Beppe Grillo ci scherza sopra dicendo, ma come, io ho 40 processi aperti. Vabbè, comunque inizia così l'articolo di cronaca di Marco Imarisio. In realtà ci sono tante news su quello che è stata la kermesse di due giorni. C'è anche un'intervista a Luigi Di Maio, è l'uomo a cui tutti guardano da sempre, vicepresidente della Camera, indicato da molti come il possibile leader del nuovo Movimento 5 Stelle, anche se il 5 Stelle dice non abbiamo leader, proprio per la natura del movimento. Di Maio, intervistato da Emanuele Buzzi sul Corriere, dice: questa vicenda della questione del leader è stata creata mediaticamente, riguarda la candidatura, non sappiamo quale sarà il meccanismo per la candidatura a Roma, se le persone che andranno a votare sceglieranno i loro candidati, è tutto prematuro, la mia volontà è prematuro, ripeto. Poi dice, i miei rapporti con Grillo e Casaleggio sempre ottimi, non vedo cosa sia cambiato. Comunque, dice peraltro sulla prescrizione, eliminare la prescrizione è un concetto fondamentale per credere in uno Stato di diritto, dice Di Maio, è la cosa più ingiusta che un cittadino possa subire. Penso a un genitore che vede morire un figlio in fabbrica di Eternit o la strage di Viareggio, merita giustizia. In questi anni tutti hanno cercato di migliorare l'efficienza della giustizia modificando la legge sui reati, ma il punto è che in Italia servono più personale nei tribunali e più magistrati, dice Di Maio. Solo che se li aumenti corri il rischio che vadano ad arrestare più politici e la politica non li ha aumentati per questo. È interessante questo passaggio di Luigi Di Maio a Imola. Lasciamo la politica, la cronaca, vi segnalo che tutti i giornali raccontano ciò che il Sunday Telegraph ha riportato, e cioè gli azionisti della casa automobilistica di Wolfsburg, la Volkswagen, puntano a un mega risarcimento da 40 miliardi di euro, tanto che il giornale titola così, Volkswagen rischia il crack, è il titolo di prima pagina. Repubblica, o meglio no, La Stampa racconta chi c'è dietro a questo, alle cause nei confronti di Volkswagen, è il più temuto studio legale forse al mondo, è il gruppo Quinn, Emanuel, Urquhart and Sullivan, è stato fondato da John Quinn. È stato fondato da John Quinn, che è considerato uno dei migliori avvocati americani, ed eccolo qui Paolo Mastrolilli che racconta la sua storia. Quinn, l'avvocato del diavolo che fa tremare le multinazionali, è uno che è stato ingaggiato di volta in volta da Google, dalla Sony, dalla Cisco, dalla Qualcomm, dal terribile fisco degli Stati Uniti, l'IRS. La FIFA lo ha ingaggiato, insomma uno che ha tutti questi clienti e 700 studi in tutto il mondo, e che potrebbe davvero essere l'incubo per Volkswagen, raccontato sulla Stampa. Vi segnalo velocemente che cosa? Un interessante articolo del Messaggero, e cioè ci sarebbe l'ok dei sindacati alla moratoria sugli scioperi durante il Giubileo. Scioperi nei trasporti, amici di Roma, che avete a che fare con uno sciopero dei trasporti a settimana più o meno. Forse arriva la moratoria per il Giubileo. È arrivato il Giubileo per garantirvi un po' di pace. L'invito era stato dal ministro Delrio, ministro dei trasporti, sul Messaggero, e sia Carmelo Barbagallo della UIL, sia Giovanni Luciano della CISL Trasporti, sia Rossana Dettori della CGL Trasporti fanno capire che c'è disponibilità alla moratoria sugli scioperi. Lo facciamo vedere anche in diretta su Periscope, la moratoria sugli scioperi durante il Giubileo, speriamo di avere un po' di pace. Vabbè, c'è da dire che c'è un po' di cronaca nera, non c'è tempo per leggerla, faccio vedere il titolo della Gazzetta per questo pareggino 0-0, Inter, Juve, pali e rimpianti, mentre il Napoli vince con la Fiorentina. Questa è la giornata che non contempla il Milan, vabbè, che è un po' in difficoltà. Siamo alla carta costa, eccola qua. In realtà la notizia è molto bella, perché si potranno mangiare le castagne quest'anno, perché è stato sconfitto un batterio, ci saranno più castagne. Ma eccola qua, una pagina sul Corriere, la nuova vita delle castagne. Viva quest'anno, se magna quest'autunno, la nuova vita delle castagne, una pagina del Corriere. Ma chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Ladies and Gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Questi politici bisogna attaccarli alla radro, e a guidare la radro sai che ci mettiamo Giannino ingazzato con una frusta a 9 code. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Prendi 2 elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino, attenti a noi due. Sono le 8:19 minuti, quasi in punto, caro Oscar Giannino, eccoci, ben ritrovato. Qua. Buon allora. Inizio settimana, buon lunedì 19 ottobre, buon Santa Laura, che si chiama Laura. È puntuale, stamattina se l'hai dimenticato, no, santo. Santa Laura. Laura, evviva Laura. Allora, caro Oscar, è stato un weekend dedicato alla politica. Oggi la politica, ma è piena anche di cose interessanti in realtà. C'è il solito, potremmo dire, dibattito all'interno del PD con Bersani che accusa di aver fatto una legge di stabilità incostituzionale, Renzi. Perché incostituzionale intanto? Si richiama l'articolo 53 della Costituzione? Sì, dimentica che deve essere non ogni singola imposta ma l'intero ordinamento, deve avere l'effetto progressivo, scambia un'imposta patrimoniale, cioè il mutasi con una di reddito, e quindi vabbè, come al solito è una roba interna del PD per dire non sei il nostro segretario, noi siamo di sinistra e tu no. Cioè una battaglia politica del PD, però forse la battaglia politica ci interessa meno, ci interessa capire questa cosa delle tasse, cioè perché l'accusa di Bersani è si toglie la tassa sulla casa, si agevolano, che ne so, i ricchi chi sì. Ha le ville, chi ha i castelli, forse bisognava dare proprio più soldi per il contrasto alla povertà. Questo è un tema sul quale i nostri ascoltatori chiediamoli cosa pensano, perché magari possono anche pensare che forse per crescere più era meglio usarli per abbattere l'IRAP definitivamente, perché l'effetto sul PIL sarebbe maggiore. Comunque 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta sulla questione della tassa sulla prima casa. Hai visto che però anche Cantone, Raffaele Cantone, magistrato anticorruzione, presidente anticorruzione, ha attaccato quel provvedimento di cui abbiamo discusso, e cioè l'innalzamento a 3.000 euro della soglia del contante. Dice più che altro che cambiare le regole ogni volta. Si trova in difficoltà, mi pare molto forte a giustificare la soglia come misura antievasione. Dice semplicemente che non bisogna far cambiare idea. Bersani poi l'attacca quando era ministro lui ai tempi di Renzo Latta, era a 5.000 euro. La politica, come sempre, dice quello che vuole. Ecco. Quindi dici sono soprattutto dibattiti dal fronte Bersani più Cantone. Mi sorprende Cantone con un'intervista molto ampia che c'ha oggi sul giornale, che già l'aveva rilasciata nei suoi interventi pubblici, perché è un intervento di tipo politico, diciamo molto forte nei confronti di Renzi. Ma su questo soprattutto, sulla soglia del contante? Sulla soglia del contante, perché poi ripeto, il suo argomento è, cambiare troppo rapidamente non riesce ad avere un argomento. Si dice nella lotta alla corruzione o all'evasione cambiare le regole ogni 2 anni, ogni 3 anni, è un qualcosa che disorienta in qualche modo. No? Sì, non mi pare un grande argomento sulla soglia del contante. No, sulla soglia del contante o mi motivi che la soglia del contante ha avuto effetti contro gli evasori e contro il riciclaggio, oppure sei senza argomenti. No? Comunque noi avremo Matteo Salvini, leader della Lega, dopo verso le 8:35 per chiacchierare con noi di politica, anche di legge di stabilità. C'è un altro dibattito molto forte che torna anche qui, certo. Io francamente ne posso sempre meno della questione unioni civili. In Italia se ne discute sotto varie forme da quanti anni? Decenni. Decenni. questa volta pare che siamo vicini a un qualche provvedimento, però intanto la Chiesa ha alzato i toni. Per l'ennesima volta, Monsignor Galantino, il segretario della CEI, tant'è che Repubblica oggi singolarmente è l'unico grande quotidiano, mentre tutti aprono sulle spaccature del PD, no? Lo scontro del PD sulle tasse, la Stampa, manovra, Renzi pronto alla fiducia, al Messaggero, perché Renzi poi ha detto a Bersani: non mi fa paura la Merkel, figurati se mi fai paura tu. Questo è il livello del loro confronto interno. Però Repubblica invece ignora il PD in prima pagina e apre con questo: l'attacco della CEI Unione Civili, famiglia esclusa. Il Movimento 5 Stelle però ieri ha detto tra le tante cose che è disposto a votare così com'è la legge, la legge Cirinna. A me quello che colpisce è che insomma la Chiesa fa il suo lavoro, il suo mestiere. Però lo fa sempre in coincidenza con spaccature politiche o per spingerle. Quello sì. La cosa che mi ha colpito un po' di più è il retromarcia, il giro di 48 ore del ministro Boschi, che due giorni fa diceva sulle adozioni, o meglio bisognerebbe dire questa stepchild adoption, poi bisognerebbe trovare magari un termine italiano che è un po' più interessante, non retrocediamo di un millimetro. Ieri è andata all'arena di Giletti, pare, secondo la Stampa, dopo una furiosa telefonata di Alfano a Renzi, e quindi Renzi ha richiamato il ministro Boschi e ha ricucito un po'. Sentiamo il ministro Boschi ieri all'arena di Giletti. Ci sono alcuni punti su cui il dibattito è molto acceso, penso per esempio all'adozione all'interno della coppia del figlio del partner, no? Sì. Ma sono opinioni diverse. Lei è favorevole su questo? Io personalmente sono favorevole. Questo è uno di quei temi su cui probabilmente per esempio il PD lascerà libertà di coscienza. Ma voi... libertà di coscienza è diventata nel giro insomma, di 48 ore. Poi è sempre così, la politica taglia e cuce perché i soldi dalle nostre tasche scuce, questo più o meno, perché loro si fanno com'è questa rima baciata? La politica taglia e cuce, la Boschi, come hai detto tu, prima rotto, adesso sì, mediato, certo. Perché poi Alfano si è arrabbiato. Cioè, no, non spiegarla, la politica taglia e cuce, perché sempre i soldi nelle nostre tasche scuce. Ecco, poi le interpretazioni, lasciamola al sapegno di Radio 24. Tu mettila così, rima baciata, e poi insomma, ognuno fidati, la sua interpretazione. Te ne accorgi anche tu, dai, pagando le tasse. Che così. Lo so, me ne accorgo sì. Stiamo facendo tutta sta bagarre sui tagli delle tasse. E naturalmente i meno 23 miliardi, se la legge di stabilità viene approvata così, che comportano, sono inferiori ai più 33 miliardi di aumento previsto delle entrate. Quindi io vi comunico che le entrate l'anno prossimo salgono comunque, anche con questi tagli, tanto per dirne una. No, io ecco, un altro dibattito secondo me molto stucchevole è la questione del abbassare le tasse o alzare le tasse, quello che volete, è di destra oppure ecco, di sinistra. Bravo, sono d'accordo. No, ma perché voglio dire... Tutti penso siamo d'accordo che abbassare le tasse, se si garantisce ovviamente il livello di servizi, sempre che poi i comuni non debbano fallire, sia una cosa ottima per tutti. Chi è che vuole pagare più tasse rispetto a meno? Nessuno vuole pagare più tasse. Ma il dibattito se sia di sinistra, di destra. La politica fa vivere di questo, soprattutto è giusto in un paese in cui il totale delle entrate è quasi il 49% del PIL, perché è chiaro che si fa più crescita. Però la storia ha dimostrato che è sbagliato farlo in deficit, se la spesa pubblica è al 51%. Questo è un limite vero di questa legge di stabilità, è inutile che ci giriamo intorno. Solo che il loro dibattito è essere di destra o di sinistra, perché loro vorrebbero spendere ancora di più e possibilmente tassicchiare qualcos'altro. Chi obietta a Renzi che è troppo Italia poco è tassi, di cioè, sinistra. Esatto. E allora qui il problema vero, ripeto, 51% di spesa che non si tocca e 48% di entrate, sembra che loro non lo vedano, preferiscono litigare su altro. Litigano su altro. Oh, c'è anche il Movimento 5 Stelle, non dimentichiamo. Ho detto weekend molto ricco di politica, c'era d'altronde la loro convention a Imola. Oh, Casaleggio, non c'è l'audio, ma Casaleggio si è lasciato, non so se sfuggire o se è il suo pensiero. Non davvero... mi pareva, guardando la televisione, che gli fosse sfuggito. No, non è sfuggito. Pensiero, cioè, deliberato. Il pensiero deliberato di Casaleggio è: cosa fareste come prima cosa al governo? Abolirei la prescrizione. Questo ha detto, cioè, Casaleggio. Rivela la totale liberalità della loro cultura e il fatto che Casaleggio, tra l'altro, in questa maniera di pronunciare, con l'occhio fiammeggiante, vabbè, lui è un po' cavalca, sì, un po' inquieta, il giustizialismo più bieco, insomma. Io penso che molti elettori dei 5 Stelle siano d'accordo sul fatto che un paese civile si fa con uno Stato in grado di fare processi nei tempi giusti e non bravo, che abolisce la prescrizione. Qui però è il punto, cioè ci vuole una giustizia che funzioni Meloni nei termini giusti, perché la prescrizione è giustamente una garanzia da parte di un imputato di avere un processo, di avere una sentenza e non rimanere appeso per decenni a una sentenza che non arriva mai. D'altra parte, lo sai meglio di me, Oscar, in Italia la prescrizione viene utilizzata con meccanismi molto chiari da parte degli avvocati per tirare in lungo processi per arrivare alla prescrizione. Gli avvocati fanno il loro mestiere, lo Stato che non fa il loro. Ricordiamoci, mettiamo sullo stesso piano cose che sono diverse. Ricordati anche la settimana scorsa il caso del giudice del tribunale di Prato, che per smaltire l'arretrato, perché quello è il problema della giustizia, e per i tempi inizia a fissare udienze adeguate al carico che deve esaurire, e il presidente del tribunale dice: no, io ti sanziono perché tu non puoi mica fare così, e così fai rilevare che tutti i tuoi colleghi non fanno la stessa cosa. Quindi attenzione prima di dire che non ci sono problemi. Lo stato perfetto dovrebbe essere lo stato in cui i processi sono veloci, giusti e nei stato tempi. Perfetto non può esistere, diciamo il minimo accettabile. Però ti voglio far sentire una cosa. Però io credo che alla fine la posizione di Casaleggio magari è molto popolare. Chissà i nostri ascoltatori come la pensano. Chiediamo ai nostri ascoltatori. 800 24 00 24. Luigi Di Maio fa un'intervista al Corriere della Sera e dice: eliminare la prescrizione è un concetto fondamentale per credere in uno stato di diritto, anche se la vera il vero rimedio alla buona giustizia è dare più personale ai tribunali e più magistrati. Ma senti cosa dice Di Maio: solo che se li aumenti vanno a arrestare i politici e la politica non li aumenta per questo. Questo ragionamento testimonia il cortocircuito giustizialista. Ecco, io mi auguro che se governassero, ci sono tante ragioni per cui gli altri partiti lavorano gratis per i 5 Stelle, può avvenire. Certo, con queste posizioni mi viene un po' il mal di testa. Però ti faccio sentire Grillo su Di Maio, perché ha detto una frase corta ma efficace. Ora Di Maio lo vedete così, una macchina da guerra, Di Battista, tutte le altre, avete... ma Di Maio quando l'abbiamo preso in provincia di Napoli parlava come Bassolino, Non è male questa e lui però gli ha risposto: il prossimo che noi candidiamo gente incensurata. Cioè c'è stata una bella, finalmente un po' di dialettica vera, un po' di dialettica all'interno del Movimento 5 Stelle. Presto arriverà, rendete conto, anche perché i sindaci eletti mi pare che continuano a non poter andare sul palco nel Movimento 5 Stelle dal basso. E mica solo lui, mancava Civitavecchia. Cosa hanno con Pizzarotti all'interno del Movimento 5 Pizzarotti, Stelle? Livorno, Civitavecchia, non c'erano, Longarin. Mancavano tutti questi grandi, ce n'erano di quelli di minori. Gela mancava. Caro mio. Caro Oscar, ti la democrazia sentire. È facile criticare la mancanza in bocca degli altri, però a casa propria chi non la sa coltivare non è all'altezza di ciò che cari dice. Amici del Movimento 5 Stelle, se volete far passare una buona giornata a Oscar Giannino, il tuo account Twitter è? No, mi dispiace. No, ma però, perché dire, loro sono così. Molto pronti. Sono molto pronti. Allora, sentiamo Paolo da Firenze, perché creda un tema che ci portiamo dietro e ce lo porteremo ancora sul canone della Rai, mi dicono dalla redazione. Paolo, buongiorno, è vero? Sì, salve, buongiorno. Eccoci, buongiorno a voi. Che problema ha col canone? È una cosa veramente, sai di quelle che succedono, uno dice vabbè non è possibile, è un errore, no? Ce lo dica. Poi si accorge che hanno ragione loro. Noi siamo due ragazzi che stiamo insieme, abitiamo a Firenze. Un anno fa abbiamo fatto richiesta di cambio di residenza e siamo entrambi residenti nella stessa casa. Sì. Abbiamo un solo televisore, ma insomma cambia poco, ma anche se ne avessimo 10... ci arriva la lettera della RAI a entrambi e ci chiedono di pagare il canone. Due canoni. Io naturalmente che cosa faccio? Pago il canone. È chiaro. E mando. E diventi evasore. L'altro è evasore. Esatto. Pago il canone a nome mio e per l'altro ragazzo mando la cartolina dove c'è scritto che l'ho pagata io per lui. Già. La casa una sola. E pensiamo di essere a posto. E invece? Fino a 2 settimane fa ci arriva una lettera della RAI a nome di quest'altro ragazzo in cui ci viene spiegato che siccome non siamo iscritti nello stesso stato di famiglia, cosa che peraltro abbiamo subito fatto dopo un giorno per evitare questa cosa, ci chiedono il pagamento di 2 canoni. Ma è troppo tardi rispetto all'anno in cui dovevate pagare il canone. La vedo male, esatto, la vostra faccenda. Noi dobbiamo comunque pagare il canone relativo esatto. Per carità, cioè, secondo la legge dovete, dopodiché, però è una situazione talmente paradossale. Cioè, vivete nella stessa casa. Le leggi sono paradossali in Italia. Non è che obiettando che la situazione è paradossale non lo paghi. Le leggi sono paradossali. Usare l'idea di una tassa di proprietà, di possesso, di appartamento apparati per contrabbandare un canone che dovresti pagare solo se ti servi di quel servizio. È il paradosso di questa legge. Leggete oggi per Luigi Battista sul Corriere della Sera: canone Rai, ovviamente sì, pagheremo, ma è una schifezza questa idea del canone in bolletta. Paolo, eccetera, ma eccetera. Io vorrei sapere, lei cosa fa? Cioè, perché dobbiamo andare a dare i nostri Oscar e andare in pubblicità? No, io suggerisco, più che altro faccio un esempio: 10 ragazzi che stanno in affitto, 10 canoni, fantastico. Io suggerisco che questi ragazzi informatevi prima e unitevi nello stesso stato di famiglia oppure pagate. Ho capito, ma uno si deve unire nello stato di famiglia per il canone della Rai, cioè, forse che è abbastanza no, esatto, si pone questa problematica assurda quando gli arrivano due canoni, non è che uno pensa prima. Fate un pernacchio alla Rai. La ringraziamo comunque, Paolo. Salutiamo tutti gli amici della Rai, dove andremo a lavorare sicuramente. Oscar Giannino. Però è un pernacchio. Sono incolpevoli i colleghi della Rai, mica le fanno loro le leggi. Cioè. Dai, è il momento del nostro Oscar. And the Oscar goes to... Allora, io oggi premio Fiorenza Sarzanini, che sul Corriere della Sera racconta di un dossier della Guardia di Finanza che ha scoperto che in un anno e mezzo la sanità pubblica ha truffato per 1 miliardo e 67 milioni, truffe di vario tipo. E chissà, caro Oscar, quante truffe non hanno beccato. Chissà quante non hanno beccato. 1 miliardo e 67 milioni li hanno beccati. A perenne dimostrazione di chi dice che non bisogna tagliare nulla, perché siamo oramai, tagliamo i servizi. Ma di che? Ma voi state scherzando? Tagliamo le truffe. 111 miliardi, tagliamo le truffe. Truffe, ruberie, sono, c'è di tutto lì. Allora, i 111 miliardi di sanità, diciamo che questa quota potrebbe ammontare tra il 5, il 6, il 7, l'8%. A proposito di chi dice che la spesa pubblica è arrivata al fondo del barile, che fondo del barile? 51% del PIL la spesa pubblica in Italia? Su, per favore. Allora, io invece lo do, vediamo chi lo do, ma potrei darlo al fondo della stampa, perché non mi ha convinto. Quindi do un Oscar, ma per segnalarlo ai nostri ascoltatori, perché Marcello Sorgi dice: ma insomma, la polemica del PD è un po' stantia, perché la sinistra spesso ha fatto la destra nell'economia del nostro paese. A me non mi risulta. Il problema è il contrario, è che sia la destra che la sinistra fanno solo la sinistra nel nostro paese, nella politica economica. Però leggetelo, perché Marcello Sorge fa pensare, a dibattere. Dopodiché, secondo me, la gara di tutte e due è stata a fare più la sinistra che l'altra. Se per sinistra significa tassare, cosa io non sono d'accordo. Però. Comunque, dopo la pubblicità, col vostro contributo 800240024, e ci raggiungerà Matteo Salvini, leader della Lega. A tra poco. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Allora, le 8:39 minuti con Oscar Giannino, Alessandro Milan. Sentiamo Angelo da Milano, poi andremo al nostro ospite. Angelo, buongiorno. Buongiorno ragazzi, tutto bene? Benissimo, grazie. Bene, bene. No, io volevo solo dire una cosa. Io non avrei abolito Tasi, IMU, come li hanno chiamati in questi anni qua, anzi, le avrei aumentate. Siamo il paese in Europa che praticamente non paga tasse sulla casa. Avrei tolto l'IRAP e portato la tassa sul lavoro al 15%, perché quello che non si vuole capire in Italia è che a parità di livello di stipendio di un tedesco, di un francese, di un italiano, noi paghiamo molte più tasse, loro hanno molti più soldi in tasca di noi, ma non è che a loro vuol fare come diceva l'Europa, non tagliare le tasse sulla casa, ma sul lavoro. Ma allora, scusate, un dipendente, un operaio, un impiegato tedesco e uno italiano, al lordo, 100 euro più, 100 euro meno, prendono la stessa cosa. Dov'è la differenza? È che loro pagano la metà delle tasse che paghiamo noi, cioè su un lordo di 3.000 euro loro ne rimangono in tasca 2.200, a noi 1.500, 1.600. Cioè, ma è chiarissima la sua obiezione. Ma sapete quante tasse, quante IMU e IRAP si possono pagare? No, certo. Comunque, Angelo, la tua è fondamentalmente è l'obiezione mia, cioè bisognava tasse sul lavoro e sull'impresa, perché quelle liberano il PIL più rapidamente di questa, che invece viene abolita, come dice lo stesso governo, non perché dicano moltiplica il PIL, dice perché così rafforziamo la fiducia, si traduce con voti, però insomma loro dicono la fiducia, ecco. No, la fiducia sono i voti, sì, cioè, la percezione degli italiani di avere un pochino più soldi, quindi insomma. Vedi che abbiamo degli ascoltatori molto attenti su questa cosa, come sempre. Ma vogliamo non salutare... è vero naturalmente che siamo gli unici che non pagano niente su... paghiamo 27 miliardi sul valore patrimoniale di tasse della casa, quindi proprio non è che paghiamo niente. Comunque salutiamo Matteo Salvini, leader della Lega. Buongiorno Salvini. E benvenuto. Buongiorno Alessandro, buongiorno Oscar, buona settimana a chi ci ascolta. Eccoci. Allora, partiamo proprio dall'Europa, perché insomma ha sentito l'ascoltatore. Poi Renzi qui venerdì ha detto: l'Europa, se ci boccia la manovra, noi gliela rispediamo indietro e uno pari. Almeno su questo, poi parliamo della legge di stabilità, sulla quale immagino sarà contrario, eccetera. Ma almeno su questo, visto che lei l'Europa è sempre contrario, sta dalla parte di Renzi. Fa bene Renzi a dire così agli eurocrati, parola sua. Sì, con una piccola differenza, che Renzi l'Europa la sta governando col suo partito, io l'Europa sto cercando di cambiarla essendo all'opposizione, perché Renzi questa mattina che si scaglia contro l'Europa, l'Europa col PD la governa e quindi alza il telefono e parla con i tuoi amici che governano l'Europa. È troppo facile fare. In che senso la governa? In che senso, Matteo? Che l'alleanza socialisti e popolari sta governando l'Europa. Stamattina l'Europa non è governata dai marziani. Qualcuno esprime i commissari europei all'agricoltura, alla pesca, al commercio. Qualcuno comanda in Parlamento europeo. Il partito di Renzi è uno dei principali partiti di governo però in Europa. Salvini, ammettiamo, non è una grande obiezione, cioè la realtà è che lui un po' invade, fa una scorreria nella prateria di chi non ne può più dell'Europa con questi toni. Secondo me lo fa apposta per questo. Ma Berlusconi, quando dice ci ruba il programma perché sulla casa i mutati ci ruba il programma, e anche Salvini pensa che vi ruba il programma? No, io se uno dopo anni che propongo una cosa arriva a farla, sono contento, non mi offendo. L'avevamo tolta noi la tassa sulla prima casa e non da reddito. Noi in maniera più sensata, secondo me, avevamo continuato a far pagare le tasse a chi ha il castello o la villa con tre piscine, e sono circa 75.000 fattispecie in Italia, mentre Renzi ha tolto la tassa sulla prima casa anche a chi vive nel castello, secondo me in maniera iniqua. Quindi lei l'avrebbe lasciata per alcuni, diciamo, per i ricchi, semplifichiamo così. Togliere le tasse è sempre cosa buona e giusta, però togliere il locale a Milano, a Roma, è diverso che non toglierla a quello che c'ha il castello col campo da golf. Quindi Matteo Salvini fa propria l'obiezione Bersani. Vabbè, ma io non guardo da dove arrivino. È nel merito. Ma vi faccio un altro esempio. Mi hanno rotto le scatole per mesi per la ruspa, e Salvini vuole usare le ruspe per i campi Rom. Sì. Ci sono tanti sindaci del PD che la stanno usando. E quindi se uno fa quello che io propongo di fare, se Renzi domani iniziasse a ragionare di flat tax, sto all'ascoltatore che parlava con voi, sì, riduzione seria di carico fiscale, aliquota fiscale unica al 15%, io non mi offendo. Se iniziasse a ragionare di abolizione a questo proposito, ha visto Salvini che oggi sul Corriere della Sera c'è un editoriale di Ainis che dice la Costituzione viene evocata fuori posto spesso in materia fiscale, in realtà sta rispondendo a Bersani e all'opposizione del PD alla legge di stabilità di Renzi, però in inciso dice naturalmente invece la flat tax della Lega è incostituzionale. Cosa rispondiamo all'editoriale del Corriere della Sera? E qua ci sono i difensori della Costituzione a targhe alterne. È incostituzionale questa pressione fiscale, che è fintamente amica di chi ha di meno, ma invece massacra coloro che stanno pagando le tasse e sono sempre di meno. Arrivare al 31 dicembre e dire su quello che hai guadagnato mi dai il 15%, farebbe pagare ovviamente di più a chi guadagna di più e di meno a chi guadagna di meno, ma soprattutto renderebbe finalmente conveniente pagare le tasse. Il problema è che non è bello pagare le tasse, ma se tu hai convenienza a pagare le tasse, magari recuperi una parte di quei 400 miliardi di evasione e di elusione che oggi, con un carico fiscale che arriva al 65%, cioè, mi piacerebbe parlare di questo, però in Parlamento non di Jussoli o adozioni. Qua lo facciamo. Però a proposito anche di questo, lo so, ma farei cambio, manderei Alessandro Milan e Oscar Giannino alla Camera e la Boldrini in conduzione. Falliremmo. Noi dobbiamo pensare al nostro pubblico, per carità di Dio. Salvini, però c'è un altro provvedimento che fa molto discutere, il canone della RAI in bolletta. Le chiedo cosa ne pensa, e le chiedo anche, ci sono molti leghisti che come obiezione, diciamo, fiscale, non pagano il canone della RAI. Lei lo paga il canone della RAI? Io non ho il televisore. Beh, ma lo sa che anche con questa è una notizia. Che io dovrei pagare il canone RAI perché ho l'iPad? Secondo la legge, quindi lo paga o no? Lo paga? Ma non ci penso neanche. A lei non paga il canone. Se uno non ha il televisore, dovrebbe pagare il canone RAI perché ha il videocitofono. Ma le arriva il bollettino? Sì, arriva. arriva tranquillamente da una vita al bollettino. E lei non lo però quella è una raccolta differenziata. È una dichiarata posizione di disconoscimento del fondamento. No, aspetti, questa me la devi dire. Cos'è che fa col bollettino? È la raccolta differenziata, la plastica con la plastica, la carta con la carta, il vetro con il vetro. Se io fruisco di un servizio lo pago. Se io non fruisco di un servizio, perché dovrei pagarlo? A parte il fatto che se la RAI è bello, servizio pubblico, che io sono Babbo Natale. Il bello, Salvini, è che a dire questa elementare cosa in Italia si passa per evasori, cioè loro credono di essere loro gli eticisti, quelli, siccome c'è una tassa del piffero tecnicamente è un evasore fiscale, se esiste un sistema autoritario resta autoritario, la differenza tra chi è libero o meno. Lo dico da anni, mi autodenuncio da anni, ma perché mi metto nei panni di altri milioni di italiani che adesso si vedranno arrivare con la bolletta della luce una nuova tassa, tanto che il governo conta di incassare il doppio. Sì. Renzi è un genio perché dice riduco le tasse e in realtà incassa il doppio sul canone RAI. A, parliamo del fatto che la RAI sia o meno un servizio pubblico e cominciamo a ridere. B, non esiste presumere che tutti debbano vivere e sopravvivere col televisore in casa e uno dovrebbe pagare se ha il videocitofono o se ha l'iPad. L'iPad, ma il videocitofono, l'iPad. Comunque, ecco, privatizziamo due canali RAI e togliamo la pubblicità e allora ha un senso. Ecco, le chiedo questo, Salvini. Lei ha già detto che invece per il pubblico impiego, soprattutto le forze dell'ordine, ha manifestato con le forze dell'ordine e questa legge di stabilità non dà nulla se non briciole. Però perché? Vabbè, dà la bellezza di 7 euro lordi al mese. Appunto, a un poliziotto sai come cambia la vita con 7 euro lordi al mese o un vigile del fuoco. Ma perché ha manifestato e dato in TV addirittura con la divisa da poliziotto? Non le sembra in questo modo con la maglietta? Perché me l'ha regalata. E mi ha detto parlate, aiutaci a far parlare un po' di noi, perché dobbiamo pagarci le divise, perché dobbiamo pagarci i pantaloni di ricambio, le camicie in servizio, le magliette se le sporchiamo durante un arresto, ce le dobbiamo pagare perché andiamo in magazzino e chiediamo la taglia 48 e mi dicono ti pigli la 54 o non ti pigli nulla. E non è normale. Senta, le chiedo anche, Volkswagen è a rischio crack, c'è un rischio di 40 miliardi di risarcimento danni che proviene dagli azionisti. Lei, essendo un'azienda tedesca, ci gode un po' o no? No, perché molti fornitori, fornitori sono italiani. Ma solo per quello? No, scusi. Non è che siccome non risponde assecondando l'attesa. Viva ricordarsi che i politici si ricordino che ci sono miliardi di fornitori italiani. Viva. Oggi vedo le foto della Merkel che va in Turchia e dice accelererò il processo di adesione della Turchia in Europa se ci date una mano sugli immigrati. Ecco, secondo me una che pensa di portare la Turchia in Europa è pericolosa e da incarcerare. Detto questo, non siamo a Italia-Germania 4-3 a Berlino, anche a me l'euro è stata un'invenzione tedesca per fottere l'Italia, per fottere l'industria italiana. Però se chiude la Volkswagen e lascio a casa migliaia di lavoratori italiani e ci godo, sono un cretino. Anche tedeschi rimangono a casa. Tedeschi, però insomma, tanti italiani. Visto che questa Europa è stata disegnata su misura della Germania, dice loro ce la caverebbero italiana, e adesso tocca un po' a noi riprenderci. Comunque, per informare i nostri ascoltatori, i giornali sono pieni di questa notizia che parla della possibilità che uno studio di quelli internazionali di avvocati più d'assalto sta sentendo i fondi internazionali nel capitale di Volkswagen per vedere se vogliono fare azione. È lei che promuove la roba, quindi non c'è alcuna certezza ancora, però se questo arriva questo studio è molto agguerrito, è una botta, rischia di mandare in crack proprio a Volkswagen. Però Salvini, una curiosità sulla regione Lombardia ce l'ho, cioè perché ci siamo interrogati io a Scorgiannino, cioè perché lei che è sempre stato garantista eccetera questa volta è andato a dire praticamente che i giudici stanno facendo una sorta di complotto nei confronti della regione Lombardia e anche della Lega. No, hanno indagato un assessore della Lega perché ha inoltrato una lettera di richiesta di intervento di un'associazione di ambulanze della provincia di Milano. Ecco, io ho visto indagini di ogni tipo e processi su ogni bizzarria, però essere indagato e sputtanato per due giorni su tutti i giornali e su tutte le televisioni come assessore al bilancio di regione Lombardia, parlo di Massimo Garavaglia che gestisce 22 miliardi di euro. Assessore all'economia. perché hai inoltrato la lettera della Croce Azzurra del Ticino che diceva: rivedete le regole di un bando, altrimenti nessuno riesce a partecipare a quel bando. Ecco, se questo è motivo di indagine, io ho ricevuto, inoltrato, ascoltato suggerimenti, indicazioni, richieste della Croce Verde, della Croce Bianca, della Croce Rossa, della Croce Rosa Celeste, dell'Avis, dell'AIDO, cioè, dell'ADMO, facendo un servizio. Sì, però lei ha detto ci vogliono fermare, cioè lei ha detto ci vogliono fermare in un'intervista al Corriere della Sera, e questa è l'idea del complotto. E beh, scusa, se mi sputtani, la Lega è in salute, fortunatamente per la battaglia che fa, non perché siamo fortunati sulla legge Fornero, sugli studi di settore. Regione Lombardia è quella coi conti sanitari migliori in Italia e fra i migliori d'Europa. L'anno scorso, per intenderci, gli ospedali lombardi hanno fatturato quasi 1 miliardo di euro di prestazioni sanitarie a persone che arrivano da fuori Lombardia e da fuori Italia. E noi, pur di attaccare questo modello che funziona, e il movimento Lega Nord che lo governa, posso fare inventiamo le indagini. Un'osservazione, dai, a Salvini. Io non lo so, perché non ho letto le carte, c'è solo questo. L'impressione, operando come giornalista a Milano da anni, è che insomma il sistema Mantovani, sto parlando di Mantovani in questo caso, non di Garavaglia, il sistema Mantovani non sia una cosa inventata dai giudici. Ecco, cioè quando fa l'assessore a Lungo, uno che ha cooperative proprie schermate con i figli che ci lavorano dentro, attive negli stessi settori, non è una cosa. Oltretutto, una cosa su cui. Poi io conosco benissimo gli uomini della Lega. E questi, se sbagliano, Mantovani è un sistema, ma se sono attaccati mi arrabbio come una bestia. Per Forza Italia evidentemente ho meno conoscenza e quindi non do pregiudizi né di innocenza né di colpevolezza a priori. Dico solo che, e lo dico a me e lo dico a chi ci ascolta, se gli errori erano stati commessi fino a 1 anno e 2 mesi fa e la richiesta d'arresto era di 1 anno e 2 mesi. Sì, questa è un'anomalia. Questa effettivamente è una cosa da chiarire. Perché c'è scritto una richiesta d'arresto che questo è un criminale. Ma tu sei un criminale. Senta, le posso fare un'ultima domanda? 30 secondi, ma lei lavora per uccidere tutta la destra e non governare rimanendo all'opposizione a destra, o perché poi alla fine fa un patto per governare contro Renzi? Io lavoro per chiedere agli italiani un voto più di Renzi, per andare a governare e cambiare veramente l'Italia al di là dei tweet e degli slogan. Non mi interessa aumentare i voti e stare all'opposizione, mi interessa semmai mettermi in discussione anche come Matteo Salvini, anche come Lega, ma cambiare l'Italia e cambiare l'Europa. Quindi voglio prendere un voto in più di Renzi e andare a governare. E le sta bene Carlo Sangalli, candidato sindaco del centro-destra a Milano insieme a Berlusconi, lo scegliereste? Girava questo nome, Carlo Sangalli. Non lo so, me lo dice lei. L'avrà letto sui giornali. Il commercio a Milano è fondamentale, però non l'ho né sentito né so se abbia voglia di candidarsi. E peraltro Sangalli ha detto già ieri ipotesi irreale. Sul giornale di oggi c'è ipotesi irreale, Alessandro. Ho capito, che devo dire? Questa c'è. No, però mi piacerebbe un candidato normale, quindi un uomo del commercio, un commerciante, un imprenditore a Milano mi piacerebbe. Le piacerebbe, vabbè, insomma, vedi. Allora la ringraziamo, Matteo Salvini. Grazie, e dobbiamo Salvini. Chiudere, caro Oscar Giannino. Gli ascoltatori, dai, li recuperiamo domani. Dico sempre così, ma li recuperiamo. Tardi di più gli ascoltatori. Veramente, li recuperiamo. Cioè, li vuoi tassare tutti? Almeno facciamoli lamentare, no? Dico almeno io. La lamentela. Ciao, a domani.